la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, bentornati alla versione di Oscar. Oscar Giannino vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast in questo venerdì 27 di ottobre, in cui la politica ferve rispetto alle polemiche approvata la legge elettorale tra PD da una parte, chi l'ha abbandonato, l'uscita del Presidente del Senato dal PD dall'altra, e le cronache invece economico-finanziarie tengono sempre sullo sfondo la vicenda della Banca d'Italia, visto che stamattina, come sapete, c'è stata la riunione del Consiglio Superiore al quale è arrivato il nome della conferma del governatore Visco. Anche qui aperto dissenso rispetto alle indicazioni di Renzi, che ribadisce: noi continueremo a lavorare per far emergere le responsabilità della Banca d'Italia. Di Visco sarà singolare, perché se una conferma del governatore in presenza di una guerra dichiarata da parte del leader del partito di maggioranza del governo Gentiloni promette una situazione che non ha eguali, insomma, nei paesi avanzati e nell'euroarea. Ma noi torniamo oggi, dedichiamo la puntata di oggi, cari ascoltatori, a una riflessione aggiuntiva, per così dire, e preventiva. Aggiuntiva perché oggi tentiamo di riflettere dando voce a chi ha obiettato ai referendum che si sono tenuti la scorsa domenica in Lombardia e in Veneto, chi ha obiettato contrastando in punta di numeri e in punta di diritto l'opportunità e anzi la fondatezza stessa delle richieste della Lombardia e del Veneto, che sapete sono state formulate con dei quesiti che discendevano da una sentenza della Corte Costituzionale dicendo: si possono fare referendum consultivi in Italia ma solo in linea con l'articolo 116 della Costituzione. Così è stato nella formulazione, ma come sapete nella campagna poi uno dei fondamenti è stato proprio quello dell'aggregazione e disaggregazione dei conti del dare e dell'avere fiscale rispetto alla spesa del Lombardia e del Veneto rispetto al Sud. E chi ha seguito il dibattito sui media del centro-sud ha visto che erano molto più accesi e molto più duri di quanto non sia stato lo stesso dibattito politico. Io più volte l'ho notato la mattina nella trasmissione con Luca Telese, e si sono letti titoli avvampanti, cioè il Nord vuole i soldi del Sud, giù le mani dalle nostre risorse, un contrasto radicale sulle stesse cifre. Io ve ne riproporrò alcune semplicemente su come si calcola e a quanto ammonta il cosiddetto residuo fiscale, cioè il surplus di gettito dato allo Stato nelle regioni rispetto alla spesa effettuata in quelle regioni. La mia opinione è che su questo contrasto una classe dirigente seria dovrebbe, proprio perché è stato radicale, è stato molto energico nei toni, dovrebbe continuare a riflettere. Lo dico perché c'è anche una parte, per così dire, non solo consuntiva, ma consuntiva per modo di dire, visto che comunque il confronto poi con il governo Gentiloni e con il successore è ancora tutto da aprire e verificare, quindi sarà una vicenda che ci accompagna a lungo e ci accompagna con novità di ieri. Il governatore De Luca ha detto che anche lui, quello della Campania, all'atere del comizio che ha tenuto in chiesa Renzi a Pestum, però ha detto che anche lui intende percorrere questa strada. Il governatore, il presidente della Puglia, Emiliano, ha detto anche lui che vuole percorrere questa strada, quindi comunque è un percorso che ci accompagnerà. Ma teniamo anche bene la mente avvisata al fatto che il 5 di novembre si vota in Sicilia. Ecco, io della Sicilia, dell'autonomia speciale siciliana, di cui io sono molto critico, io sono per concedere l'autonomia secondo l'articolo 116 rafforzata in quelle 23 materie a chi la chiede, ma sono anche convinto del fatto che storicamente non esistono più i motivi per tenere in Costituzione gli statuti speciali, che avevano senso nell'immediato secondo dopoguerra, ma insomma sono passati molti anni e soprattutto l'uso che se ne è fatto è molto diverso. Allora io vi ricordo, chi volesse approfondire, oggi c'è un'intera pagina sulle 24 ore, pagina 11, firmarla è Roberto Galullo. Vi ricordo due soli dati, visto che si avvicina alle elezioni siciliane, che avranno anche esse conseguenze politiche nazionali. Allora, la somma di tutti i dirigenti nelle 15 regioni a statuto ordinario italiano e ammonta a 1919 dirigenti. Il dato è di qualche anno fa, ma è un dato complessivo di riferimento. 1919 in 15 regioni a statuto ordinario. Quante sono nella sola Sicilia i dirigenti rispetto a 1919 di 15 regioni? Sono 1692 solo nella regione Sicilia. Ecco, nella manovra di bilancio approvata il 31 dicembre 2016 per quest'anno, la legge numero 27, altri 20.000 precari assunti in Sicilia. I termini dell'impugnativa su questa legge, mentre l'impugnativa è avvenuta su 11 articoli vari e diversi da parte del governo, ma su questa parte, quella dei 20.000 precari assunti, il governo non l'ha impugnata. E quindi la campagna elettorale, non a caso, per la regionale siciliana è fatta da tutte delle più diverse proposte per non limitarsi a soli questi 20.000, ma sanarle e ammetterne all'assunzione regolare una cifra che supera i 30.000. Ecco, vi dico solo queste cifre qua per capirci. Ma, coi nostri ospiti tentiamo di capire la base di queste contestazioni. Per esempio, una cifra che è stata molto... qui parla il giornalista, non il tifoso. Noi non abbiamo nei nostri documenti di contabilità nazionale, purtroppo, osservazione certa e sicura del dato che viene chiamato residuo fiscale. Se andate a vedere le elaborazioni che sono state quelle adottate dal Veneto alla Lombardia, sono quelle che si riferiscono all'osservatorio sul federalismo, che elabora dati in nome e per conto del Consiglio regionale del Veneto e che da molti anni aggiorna appunto le cifre del cosiddetto residuo fiscale. Ma se andate a vedere invece fonti ufficiali di governo, troverete che l'Agenzia per la coesione territoriale, il cui sito dell'agenzia lo trovate sia sul sito del MEF sia su quello di Palazzo Chigi, elabora invece un rapporto annuale sui conti della coesione territoriale, e questo rapporto è fatto invece con criteri totalmente diversi, perché si considera la percentuale di spesa pubblica in rapporto alla popolazione e non al PIL, e in base a questo criterio il Sud avrebbe praticamente ragione quasi a insorgere, come dice Pino Aprile. Perché se andiamo a vedere rispetto alla quota di PIL del Nord, e anzi il rapporto per la coesione territoriale mette il centro-nord insieme da una parte e il sud dall'altra, non so in base a quale criterio di correttezza, ma il punto è che a quel punto c'è il centro-nord che ha il 77% del PIL e la spesa è di 6 punti inferiore, e quindi questo darebbe ragione a chi dice eccolo qua il residuo fiscale. Ma rispetto alla popolazione non è così, perché è il 77% del PIL, ma è il 67% della popolazione, e quindi a quel punto avrebbe ragione il Sud a dire: come vedete, la spesa pro capite nel Nord è superiore a quella del Sud. Ecco, un paese che non riesce a mettersi d'accordo neanche sulle cifre è un paese sicuramente molto singolare. Vi faccio un altro esempio di una cifra che è stata fatta in campagna referendaria. In questo caso sono cifre elaborate dal professor Andrea Giovanardi, le ha fatte proprie in un intervento sul Corriere della Sera Gianfelice Rocca, imprenditore alla testa di un grande gruppo internazionalizzato, quindi che sta in Centro e Sud America, negli Stati Uniti, oltre che in Italia, ed ex presidente di Asso Lombarda. E anche su questo nei giornali del Centro Sud è avvampata una polemica. E che cosa dicono le cifre citate dal professor Giovanardi da Gianfelice Rocca? Eccolo, dicono questo: se andiamo a vedere il PIL cumulato da Lombardia e Veneto tra 2009 e 2015, il PIL cumulato in quegli anni a prezzi costanti, in quei 6 anni, è stato tra Lombardia e Veneto, la somma fa 3.471 miliardi di euro, quello dell'intero centro-sud 3.881 miliardi, quindi come vedete supera di poco quello della Lombardia e del Veneto. Ma se andiamo a vedere, dice il professor Giovanardi, in termini di gettito e spesa, gettito garantito dalla Lombardia e Veneto in quei 6 anni e gettito garantito allo Stato da centro-sud rispetto alla spesa in Lombardia e Veneto e spesa nel centro-sud, le due regioni del nord sono in avanzo, hanno un surplus di 394 miliardi, mentre invece il deficit di quelle del sud è di 305 miliardi. Quindi su questo PIL cumulato 2009-2015, che cosa è successo? Che il centro-sud ha realizzato un disavanzo pari al 10,7% del PIL cumulato nel centro-sud in quegli anni, mentre Lombardia e Veneto hanno garantito un surplus superiore all'11%. Eppure che cosa è successo? Perché uno mi potrebbe dire, questa è un'analisi arida, il problema è la solidarietà e gli effetti del sostegno sul PIL di chi va peggio. Ecco, sì. Eppure c'è un malgrado, tra 2009 e 2015, il PIL cumulato Lombardia e Veneto ha registrato una variazione del PIL pari al 3,3%, ed è questa la ragione per cui, avendo perso più di 9 punti di PIL nella crisi, adesso siamo nel nord a meno 5% più o meno, meno 5, meno 6. Il centro-sud in quegli stessi anni, malgrado questo flusso di risorse, dice il professor Giovanardi, ha realizzato un ulteriore calo del PIL del 3,3%, quindi in ogni caso questa solidarietà fatta così non funziona. Mi fermo qua perché potrei fare molti esempi. Abbiamo con noi il professor Paolo Balduzzi, che è un economista, è un docente di scienze delle finanze alla Cattolica di Milano, collabora alla Voce.info, è stato membro della commissione tecnica per la revisione della spesa guidata da Carlo Cottarelli, quindi insomma un'autorità e indiscussa. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio. E con noi anche il professor Dario Stevanato, che si è diritto tributario all'Università di Trieste. Anche grazie a lei. Grazie, grazie, buongiorno. Allora, Balduzzi, iniziamo dalle cifre, se posso chiedergliela. Lei come si mette? Perché lei ha un intervento suo sul Messaggero in cui anche lei diceva, ma queste cifre sono molto opinabili, è così? Sì, nel solco di quello che stava raccontando anche lei, le cifre sono molto opinabili per tutte le ragioni già illustrate. Il problema non è tanto le risorse che vengono inviate ogni anno a Roma, con la base imponibile, cioè tipo fiscale, si calcola facilmente. Il problema è come si regionalizza la spesa pubblica, quindi come si calcola la redistribuzione effettiva sullo Stato. E quindi, a seconda delle ipotesi che i vari studi fanno, e ce ne sono veramente tanti, possiamo ottenere delle cifre molto elevate, delle cifre invece più contenute. Io ho cominciato a scrivere sulla Voce e poi ho continuato con le altre interviste, facendo notare semplicemente che Maroni, nel caso specifico, aveva deciso di utilizzare, per quanto riguarda le segui fiscali, l'ipotesi alla Lombardia, tra virgolette, più favorevole, quella dei 54-57 miliardi. Io facevo notare che c'erano altri studi che indicavano una cifra di gran lunga inferiore, tra i 20 e i 30 miliardi. Peraltro contestavo anche il fatto, insomma, lei sa, i ricercatori su questo sono molto esigenti, che non si riusciva a trovare la fonte vera della cifra di Maroni, perché uno si vuole anche rendere conto da dove saltano fuori quei numeri. Magari sono corretti, ma se uno non li può verificare. Quindi facevo notare queste grosse differenze. Dicevo, perché in questo di paragiornalista, senza avere il suo rigore, ma giornalista, in effetti la fonte, cioè l'osservatorio, gli studi sul federalismo del Consiglio regionale del Veneto, è molto deficitario nell'indicare la metodologia con cui arriva a quei dati. Scusi, punto. Per far capire a chi ci ascolta, se volesse andare a controllare. Scusi se l'ho interrotto. No, non c'è problema. Inoltre, voglio dire, i dati sono stati elaborati anche da Eupolis, che è un'agenzia di ricerca in cui lavorano naturalmente professionisti, ma che dipende dalla regione Lombardia, e quindi in tutti e due i casi, voglio dire, c'era anche, come dire, il sospetto che le cifre potessero essere perlomeno un po' influenzate. Non voglio dire che ci fosse del dolo nella ricerca, ma certamente, come dire, la Lombardia da sola si fa i conti e in più non me li fa verificare. Quindi dicevo, attenzione, a parte che secondo me il dibattito non dovrebbe essere semplicemente buttato sull'ammontare del residuo, ma anche ammettendo quello, è chiaro che dal punto di vista elettorale parlare di 57 miliardi di differenza ha un impatto diverso di parlarne di 20 o di 30, insomma cambiano anche gli ordini di grandezza. Che dice il professor Stevanato su esistono bias, tare, insomma difetti fondamentali dopo tanti anni che parliamo di nord e di sud, ancora nell'elaborazione dei dati, secondo lei? Probabilmente sì, regionalizzare la spesa non è facile, comunque credo sia meno facile ad esempio che regionalizzare l'imposta, perché lì l'altro termine di riferimento per il calcolo del residuo, cioè il gettito tributario riferibile a un territorio, dipende almeno da criteri che possono essere verificati più facilmente, ad esempio non so dov'è la sede di una società con riguardo a un'imposta sulla società, oppure dove è il luogo del consumo, qui dove ci sono, diciamo, determinati agganci del presupposto imponibile al territorio. Anche su quello, peraltro, sono criteri che a seconda di come vengono fissati portano ad una diversa ripartizione delle entrate tributarie tra regioni e regioni, ma indubbiamente il tema della spesa credo sia più complesso. Però anch'io penso che in tutto sommato non sia questo il tema fondamentale che adesso aspetta la trattativa tra le regioni, per il momento Veneto e Lombardia, e il governo centrale con riguardo alla richiesta di maggiori spazi di autonomia, perché mi pare che lì invece il problema sarà come determinare l'ambito effettivo delle singole competenze da trasferire, come determinare i criteri di individuazione delle spese riferite a queste competenze oggi svolte centralmente, quindi se si prenderà la spesa storica o criteri standard o altri criteri ancora, e come ed è lì, come lei accennava, che si sta scatenando un po' una polemica, e come verrà finanziata questa trasferimento di risorse dal centro alla regione, quindi cosa che necessariamente dovrà esserci. C'è un punto su cui vedo molti equivoci nelle ultime giorni, è il seguente, cioè si dice, siccome la materia tributaria non rientra tra quelle oggetto della ripartizione, nuova ripartizione di competenze, allora di quello non si parla, quindi se volete maggiori spese, maggiori servizi, benissimo, ma non pensiate di avere delle risorse per farlo. Questo è sbagliato, perché è chiaro che se una competenza, se un servizio passa dal centro alla periferia, necessariamente il centro spende di meno e un pari ammontare di risorse, diciamo, in prima battuta deve essere trasferito alla regione. Però Stefanato, io le chiedo per il nostro ascoltatore di essere più preciso, cioè lei, un conto è dire è ragionevole ritenere che se alla fine della trattativa, in ottemperanza alle materie indicate all'articolo 116, le regioni si vedranno riconosciute autonomia rafforzata, un conto è dire è ragionevole che lo Stato dia le risorse. Altro conto è: esiste un vincolo di legge per cui lo Stato deve farlo? Esiste questo vincolo di legge? Ma non c'è dubbio, ma l'ho scritto. Io lo so che l'ha scritto, però bisogna dire. Davo il tema per smarcato. Cioè, allora, è ovvio che è implicito nel 116, nel momento in cui. Adesso dirò subito che è anche esplicitato, ma è implicito nel 116, perché se passano materie. Più che materie, se nelle materie di legislazione concorrente la regione chiede e ottiene di svolgere sul territorio delle funzioni, ad esempio non so se decide di assumere in proprio gli insegnanti e quindi di pagarne lo stipendio, chiunque capisce che per fare questo c'è bisogno di risorse. Poi c'è la norma espressa nella legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale che dice l'articolo 14 che con la legge con cui vengono attribuite i maggiori ambiti di autonomia alle regioni che ne hanno fatto richiesta ai sensi del 116,3 sono anche trasferite le relative risorse finanziarie. Quindi lo dice la legge. Eppure, queste risorse poi come verranno trasferite? Con fondi dello Stato, attraverso quote di compartecipazione ai tributi regionali? E questo è da vedere, questo fa parte della trattativa. Però torniamo col professor Balduzzi a uno dei temi, perché a me ha molto colpito questa questione che adesso riepilogava in punta di legge sul federalismo e il professor Stevanato, mi ha molto colpito come nell'informazione del centro-sud, differentemente da quanto avviene dai presidenti delle regioni del sud, perché ho citato il caso di Emiliano, ma adesso c'è anche De Luca, generali del centro-sud abbiano interpretato questa campagna come un volete dei soldi, trattenere dei soldi e levarli a noi. Ma il problema, Balduzzi, sono io che non capisco probabilmente. Se anche al sud si chiedesse autonomia, sarebbe la stessa cosa. Anche loro avrebbero delle risorse che dallo Stato centrale si sposterebbero a livello più basso secondo il principio del beneficio di Einaudi. In cosa è sbagliato questo ragionamento? No, non è sbagliato questo ragionamento. Il problema, secondo me, è che la campagna elettorale è stata impostata nella maniera errata, cioè più facile per i referendari, quella di infiammare, come dire, tra virgolette naturalmente, la popolazione rispetto a questo tema di trattenersi le risorse, e anche la reazione, in particolare particolare quella naturalmente del centro studio, è stata influenzata da questo. In linea di principio la cessione delle competenze è fatta garantendo gli equilibri di bilancio, quindi per rinforzare il discorso del professor Stevanato, nell'articolo 116 stesso c'è il riferimento al rispetto dei principi dell'articolo 119, cioè gli equilibri di bilancio, quindi queste sono operazioni che si possono, anzi si devono fare rispettando gli equilibri di bilancio. Il punto è, e qui secondo me la battaglia è stata posta in maniera sbagliata dai referendari, non tanto insistere sul mandato popolare, che voglio dire è sacrosanto, ma se sei presidente di una regione ce l'hai già il mandato popolare, quanto insistere su criteri più oggettivi. Cioè, la mia regione è stata in grado finora di gestire in maniera efficiente le risorse, sì o no? Se sì, ho tutte le carte in regola per chiedere maggiori competenze, se no forse queste carte in regola non ce l'ho, e quindi il dibattito secondo me andrebbe impostato secondo queste dimensioni. Sono d'accordo. Io sono d'accordo, come sono d'accordo anche su quello che ritualmente ripeteva sempre, siccome gli fa onore, perché non molti lo fanno, ma lo voglio segnalare a chi ci ascolta, il professor Balduzzi ha sempre detto, e poi non ci dimentichiamo che la vera questione sarebbe anche rivedere le autonomie speciali, visto proprio con lo stesso criterio dell'utilizzo che è stato fatto, anche se è più complicato perché quegli statuti sono costituzionalizzati, però io sostengo che a distanza di tanti anni un paese serio dovrebbe sottoporre a un riesame complessivo la sua architettura. Io credo profondamente che un'Europa delle regioni e non solo degli stati sia la maniera in cui gli stati, gli ordinamenti statali possono e devono declinare l'interpretazione al meglio delle possibilità offerte dalla globalizzazione. Questa è la mia opinione. Noi non siamo un paese federale, io penso che gli ordinamenti federali, quando si hanno storie complicate alle spalle, siano più forti per consentire a chi ha più risorse e capacità e radicamento storico di mix produttivi elevati, di intensità di capitale umano, capacità di attrattività e produttività nel mondo, consente loro di crescere di più, ma di produrre più risorse anche a vantaggio di chi ha meno. Questo ci insegna l'esperienza della Germania federale da questo punto di vista, e devo dire la verità, molti forse non lo sanno, ma siccome lì l'insegnamento è una competenza dei Länder, addirittura il numero di anni che compone i cicli di insegnamento è diverso, i numeri degli anni della scuola secondaria è diverso da land a land, eppure a nessuno salterebbe in testa di considerare che la Germania non preserva la propria identità storico-culturale, la propria capacità di dare un'offerta di formazione del capitale umano intensamente mirata all'occupabilità, a differenza del nostro. Allora, intanto grazie al professor Balduzzi, e andiamo adesso alla borsa, un po' di pubblicità e poi torniamo con il direttore del Mattino di Napoli. Indagati, calo del PIL, Trump che litiga con Kim. Oh, certo che i giornali non ci aiutano molto a trovare buone notizie per fare un programma ottimista. No, Carlo, guarda, c'è anche il cuoco che cucina per i poveri, questa promettente startup di giovani studenti e un politico onesto. Oggi, domani si vedrà. Va bene, ma è convinto, si può fare davvero. Sabato iniziamo alle 7.30 e domenica alle 8. Presto, questa è una buona o una cattiva notizia? Ottima, io non vado neanche a letto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Sabato dalle 7.30 alle 9 e domenica dalle 8 alle 10 su Radio 24. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati, cari ascoltatori di Radio 24, per vedere, avendo alle spalle il successo che ha sorpreso molti, insomma, dei referendum in Lombardia e in Veneto da una parte, dall'altra il fatto che si vota in Sicilia il 5 di novembre, dall'altra la Catalogna, che questo fine settimana avrà degli sviluppi, ohimè, temo non troppo buoni. Però oggi la puntata è dedicata alle ragioni del Sud. Capiamo meglio le ragioni delle obiezioni che sono state durissime. Abbiamo visto le obiezioni del Sud attraverso il professor Paolo Balduzzi della Cattolica di Milano su come si elaborano i numeri alla base delle richieste della Lombardia e del Veneto, E andiamo al punto, perché non ci sono solo state le osservazioni, diciamo così, quantitative, ma è stato il tono proprio di una reazione che è stata più intensa sui media quasi di quanto non fosse nella politica. E abbiamo con noi il direttore del Mattino, oltre al professor Stevanato, che ci accompagna in tutta la puntata. Alessandro Barbano, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, immagino che lei non sia stato sorpreso dal fatto che la reazione, diciamo, dei media, al dibattito pubblico nel centro-sud sia stata molto, io penso addirittura più forte di quella della politica, mi sbaglio? Ma insomma, io non ho visto tutta questa reazione del centro-sud, francamente. No. Anzi, noi abbiamo, ma sostanzialmente, vedi, qui non si tratta di rivendicare o di mettersi in una logica di contrapposizione. Da un punto di vista sostanziale il Mezzogiorno non parla politicamente, ed è vero. Io non sono in grado di fare una comparazione sui numeri, anche perché sono da 5 anni ormai, qui dirigo il Mattino, e mi trovo sempre di fronte a questo schema, che è un po' una sorta di coazione a ripetere. Ci sono quelli che dicono che il Sud ha avuto tutti i soldi che meritava e di più e che li ha sperperati, e ci sono invece quelli che dicono nel Mezzogiorno che non è vero, perché il Nord ruba i soldi del Sud. Ora io trovo questo discorso abbastanza sterile. La questione è un'altra, a mio sommesso avviso, cioè il paese è un paese duale. Questo paese duale è un problema per il paese oppure no? E lo è, perché effettivamente un paese che ha dei tassi di crescita così diversi, e soprattutto che si allontana non solo nel PIL, si allontana nella perdita del capitale umano, nel rapporto con l'innovazione, nella crescita culturale e civile. No, un paese così è un paese che è un problema per tutti. Questo è il punto. Allora, quello che oggi io penso che il Sud, il deficit di capitale umano e di politica che c'è nel Mezzogiorno, poi si ripercuote nella incapacità del Mezzogiorno di contrapporre a una prospettiva politica che oggi il Nord avanza una visione nazionale che dovrebbe essere quello, l'obiettivo del Mezzogiorno. Se l'unica risposta che c'è è una risposta che rivendicazionista, sudista, meridionalista nel senso più deteriore del termine, che non fa le ragioni del Sud e non fa le ragioni del Paese. Prospettiva dalla quale ovviamente prendo apertamente le distanze. La questione è un'altra: in che termini oggi un federalismo responsabile è capace di collegare virtuosità amministrativa a premialità è compatibile con le ragioni di un paese duale che parte obiettivamente in condizioni diverse. A me non interessa sapere se c'è una risposta, cioè ragionare in termini giudaico-cristiani, cioè esiste una colpa, non esiste una colpa e di chi è la colpa. Il problema è in che termini oggi il federalismo che propone la Lega e che propone, diciamo, la visione di questo referendum è utile al paese intero, non al Mezzogiorno. Io penso che questa sia la prospettiva corretta nella quale la politica dovrebbe ragionare. Purtroppo a questa prospettiva non si arriva, perché anche il Mezzogiorno è debole e quindi non riesce a far valere questa voce. Ma lei, quando dice debole, in questo momento sta parlando di una debolezza che nasce dalla debolezza dell'economia, o è una debolezza delle classi dirigenti, no, politiche, economiche, meridionali? È una debolezza politica, sostanzialmente una debolezza politica, lo ha scritto Massimo Dinolfi molto bene. Il Mezzogiorno in questo momento non ha un solo esponente politico di rilievo, non ha una strategia politica. L'esperienza degli stessi governatori regionali, tutti di marca PD, da un punto di vista politico, da un punto di vista amministrativo è a luce e ombre, perché ci sono regioni in grandissimo ritardo e ci sono regioni che riescono a svolgere, diciamo, che in qualche modo si sono messe un po' in corsa, tra queste la Campania, ma da un punto di vista politico è assolutamente illipuziana l'offerta che il Mezzogiorno offre. Quindi non esiste una prospettiva nazionale e il Nord non ce l'ha, anche perché in questo, purtroppo, in questo momento le visioni settarie particolaristiche, le piccole patrie sono più forti, hanno più segno mediatico, si impongono, e nel deficit di politica nazionale che c'è in qualche modo occupano tutto lo spazio. Okay. Io penso che questo sia il problema da cui partire. Allora, detto che, a mio giudizio, un paese che comunque non riesce ad avere cifre condivise è un paese perduto, perché la civiltà che si basa su senza numeri condivisi e diventa l'inciviltà del pari relativo. Ma detto questo, però, il problema posto da Barbano, da Dario Stevanato, è un problema su un altro piano, per così dire. Cioè, vista il gap riapertosi nella crisi e le prospettive che continui ad aggravarsi, perché grandi fenomeni di convergenza dei gap accumulati, cioè reddito pro capite in testa del capitale umano, eccetera, eccetera, non si vedono. La questione è: l'autonomia chiesta a Lombardia e Veneto, in che quadro nazionale di responsabilità condivisa su questi problemi si può porre? Qual è la risposta, Stevanato, secondo lei? Ma io credo che i due temi siano compatibili. Pertanto condivido in linea di massima le osservazioni appena fatte di grande buonsenso, così come condividevo quello che ha detto nella prima parte della trasmissione il professor Balduzzi, cioè circa un approccio laico, quindi andare a vedere se effettivamente a livello regionale quali funzioni e quali tipi di spesa ha senso decentrare, no? Lì c'è un problema di efficienza, non è detto necessariamente che spendere a livello locale sia efficiente, cioè non lo prenderei come una petizione di principio, è una cosa da verificare caso per caso. E, detto questo, però, nel momento in cui ci si avvia verso un regionalismo differenziato, mi pare che proprio sia la soluzione probabilmente più indicata per questa situazione di Stato o di economia duale citata prima, cioè un'Italia a due dimensioni, a due volti. Perché dico questo? Perché può essere benissimo che alcune regioni abbiano le capacità e abbiano dimostrato di saper meglio gestire la spesa a livello locale in modo più efficiente, con risparmi di spesa alla fine, che non sono soltanto a vantaggio della singola regione, ma vanno a vantaggio di tutti. Perché? Perché in fondo, se una regione si assume in carico determinate spese e servizi, sgravando lo Stato centrale può meglio dedicarsi a fornire quello stesso tipo e qualità di servizi nelle regioni che invece ne hanno bisogno. Cioè può benissimo uscire un sistema in cui alcune regioni chiedono più autonomia e altri invece no, perché preferiscono che sia lo Stato a occuparsene. Quindi non mi pare che in sostanza il percorso che adesso si va delineando abbia un effetto centrifugo sulla rottura dell'unità nazionale. E io aggiungo, venendole dietro, ma ripartiamo di qua perché adesso andiamo al minuto sul traffico, l'ultima interruzione, e poi ripartiamo con Barbano. Ribadisco però un punto, perché fino a questo momento questa gestione, il fondo per equazione di solidarietà tra regioni, insomma, qui è quello che non funziona, cioè l'esame storico, ma noi alla luce delle risorse date non possiamo, forse non siamo d'accordo su quante erano, però le abbiamo date, e rispetto ai gap del sud, quelli aumentano, vuol dire che questa politica che somma i costi del centralismo e del decentramento senza avere vantaggi né dell'uno né dell'altro, perché siamo riusciti in questo capolavoro in Italia, è quello alla ragione per cui noi non riusciamo a fare verso sud Italia ciò che la Germania occidentale ha fatto verso la ex DDR in 20 anni, e noi manco un 100 e rotti. Ripartiamo di qui, intanto però traffico. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati, è con noi il direttore del Mattino Alessandro Barbano, il professor Stevanato che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Tra l'altro, Stevanato, lei sarà anche in coloro che faranno direttamente la trattativa, no? Sì, l'ho saputo ieri e parteciperò volentieri a questo laboratorio che mi sembra molto interessante, e speriamo insomma, che abbiano degli sbocchi positivi. Vediamo che tempi avrà innanzitutto, però al direttore del Mattino ripartiamo da questo. Gli dice Stevanato, la domanda posta da Barbano è una domanda molto forte, risposta: se diamo competenze e quindi anche quelle risorse, sgravando lo Stato centrale, necessarie a esercitarle a quelle regioni, lo Stato centrale si potrà meglio concentrare nella soluzione dei gap. Intanto però dico io, l'architettura attuale è forse la vera ragione, il motivo per cui il gap si colma. In cosa sbaglio, direttore? No, io ho ascoltato la declinazione del professore, posso condividerla con una serie di riserve. nel senso che bisogna capire che significa regionalismo differenziato, perché parliamoci chiaro, dentro questa, questa prospettiva che la Lega pone, ci sono toni e obiettivi diversi, e tant'è vero ci sono anche gradazioni di intensità diverse. Il voto di Milano, vorrei segnalarlo, è molto diverso dal voto della periferia. Allora, se in questo momento la politica la fanno le piccole patrie, cioè la fanno Vicenza, Treviso, la fa questa logica, il rischio, ancora una volta, cioè se la logica è quella di trattenere 9 decimi delle tasse, perché poi è lì che si misura il regionalismo differenziato, il rischio è quello di danneggiare anche il Nord, che legittimamente deve e può esercitare una leadership e non un'egemonia, e conosci bene la differenza, nei confronti del resto del paese. Il Nord ha interesse a che la città di Caserta, che non ha mai fatto asili nido per responsabilità delle classi dirigenti locali, indubbiamente, continui oggi a non fare asili nido perché, pur essendoci magari un sindaco capace di farli, la spesa storica fa premio sul fabbisogno e quindi di fatto a Caserta non viene assegnato nessun asilo nido, mentre la città, che ne ha fatti 240 in ragione della sua virtuosità, ne farà altri 240? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Stai citando una delle norme caposaldo di come è mal organizzato il centralismo italiano. Ne sono convinto. Infatti io non dico che questo sistema funzioni, assolutamente no. Tu hai citato la Germania. Io dico che il problema del paese non è quello di aggiustiamo questo sistema, perché poi l'obiettivo è, per una parte del Nord, di auto-organizzarsi attraverso un'autonomia, diciamo, municipale o settoriale. Il problema è un altro: questo sistema non ha funzionato, questo sistema sta producendo la più grande perdita di capitale umano dal Mezzogiorno. Cioè i ventenni del Mezzogiorno vanno tutti via, i figli delle classi dirigenti del Mezzogiorno vanno tutti via. Tragedia vera. Perché non è un problema del PIL. Cioè, fare l'avvocato a Napoli a 23 anni, 24 anni è impossibile, se ne vanno tutti a Milano. Chi ha la borghesia fa studiare i figli al Nord. Allora, dopodiché, o all'estero evidentemente, questa perdita di capitale umano ovviamente si ripercuoterà ancora, e oggi Napoli è una città dove, l'ha detto l'assessore dei trasporti, il 90% dei cittadini napoletani sale su un autobus nella convinzione che non si paghi il biglietto, e non si riesce a far pagare il biglietto, e nessuna municipalità, con gli strumenti del diritto pubblico e con le regole ovviamente del corporativismo sindacale, che purtroppo funzionano in tutto il paese, riesce a ribaltare una situazione di questo tipo. Oggi a Napoli ci sono 18.000 assegnatari di case che attendono la casa, che è stata nel frattempo occupata dagli abusivi, i quali adesso aspettano la sanatoria. Allora, l'illegalità della terza città italiana, nelle condizioni in cui si è determinata, vogliamo dire che un tratto, come diceva la signora Bindi, è un tratto strutturale genetico della società napoletana, e quindi merita di essere considerata come tale? Oppure vogliamo assumere che il capitale sociale è il termometro di una condizione amministrativa prodottasi nel tempo? E questo problema lo vogliamo scaricare sul regionalismo differenziato, o vogliamo assumerlo come un problema del paese? Cioè, che interesse ha il paese a far sì che una sua parte abbia uno slittamento drammatico in una condizione che non ha nulla di europeo e non ha nulla di civile? E allora io credo che la questione sia molto più grande di accontentare gli appetiti di una provincia del Lombardo-Veneto. Milano, fra l'altro, che ha una evidentemente interessi diversi, questo problema lo ha compreso con il voto e ha dato una risposta diversa. E il rischio, fra l'altro, di Milano. Ma direttore, guarda, non lo so. Io ho letto stamattina un fondo, un editoriale del vostro gruppo che dice che Milano è una città senza leadership. Francamente, ci penserei due volte prima che da Roma e da Napoli si possa dire una cosa simile. Ma proprio lo dico non per fare polemica, lo dico perché mi colpiscono giudizi di questo tipo. Nel senso che, ovvio, il voto di Milano è un voto di una città fortissimamente internazionalizzata che per prima avverte che vuole costruire strumenti di governance che servono per aumentare, ripeto, l'attrattività e la proiettività, perché è questo, cioè Milano è la sede di più di un terzo delle multinazionali che stanno nel nostro paese e dà la percentuale più elevata di studenti stranieri nelle sue 8 università. Però non starei a dire che il voto di un pezzo contro l'altro vuol dire. Il punto è che i paesi con forti autonomie riescono a risolvere i gap meglio di quelli centralizzati napoleonici, quando c'è una storia come la nostra. Però oggi abbiamo fatto un passo avanti, perché io ringrazio Alessandro Barbano e il professor Balduzzi che ci hanno civilissimamente esposto problemi che sono problemi che io vorrei vedere al centro delle politiche, per così dire, piuttosto che invece quello di cui la politica si occupa. Grazie anche al professor Dario Stevanato. Appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva con tutti i compari, ne parleremo, Visco, la Banca d'Italia, la BCE, qui, insomma, a domani.